La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati nella nostra oretta nella quale vi racconteremo un po' dei film in sala di questo fine settimana. Vi faremo giocare per vincere splendidi film in DVD e Blu-ray e avremo una splendida intervista con Edgar Reitz, il maestro del cinema tedesco, in sala nel prossimo 30 e 31 marzo per due giorni con il suo Heimat, di Andere Heimat, il nuovo capitolo della saga che ha occupato per lui praticamente una vita. Ma andiamo subito alle novità in sala, partendo da French Connection, il film di Cédric Jiménez con Jean Dujardin protagonista, Mr. The Artist, se vogliamo. Ascoltiamo la clip. È la French che detta legge, è una maledetta piovra. Tutto il mondo sa chi dirige l'organizzazione. Mandiamo un segnale a Zampa. Facciamogli sapere che la festa è finita. Ok, intervenite. Non stai rischiando la vita. Se toccasse alle nostre figlie e se capitasse qualcosa a te, hai pensato a me? Lasci perdere, signor giudice. La cosa va a finire troppo in alto. Ha coraggio, ma è meglio che non ci rivediamo noi due. Avere usato Bang Bang di Dalida in questa colonna sonora è uno dei punti di merito di questo film. Siamo, l'avete capito, in atmosfera proprio marsigliese, anni 70, traffico di eroina fra l'Europa e il Mediterraneo e gli Stati Uniti, e questa French, la French come nel titolo originale, French Connection nel titolo italiano, che è una rete mafiosa che gestisce questo business. Chiaramente ci saranno colpi di scena, salti di staccionata e rese dei conti che non mancheranno, e in mezzo tante pistole che sparano bang bang, come avete sentito appunto nella clip. Questo film è anche l'occasione per parlare di un libro. Mi ha fatto subito venire in mente il titolo di questo libro, Voglio vedere il sangue. E allora, un libro che parla della violenza nel cinema, del suo ruolo al di là delle condanne morali, è forse proprio il libro giusto per essere accostato a un film di questo tipo. È con noi l'autore Leonardo Gandini, che saluto. Ciao Leonardo. Ciao, buongiorno. Allora Leonardo, in questo caso siamo di fronte a un film che non è un vero e proprio remake di French Connection di William Friedkin, però, come dire, c'ha l'America nel sangue e anche nel DNA. Si spara molto. Cosa ha voluto dire la violenza in quel tipo di cinema francese, se vogliamo il polar, di cui questo film è forse un erede? Ma guarda, è un ottimo esempio il polar di uno dei punti sui quali insisto nel libro, cioè il fatto che la violenza cinematografica è sempre raccordata ad un tessuto narrativo che a sua volta la riconduce ad un ordine morale. Cioè, di solito la violenza nel polar, come più in generale nel genere poliziesco europeo e americano, viene esercitata da personaggi che si schierano rispettivamente al di qua e al di là della legge, tutori della legge e trasgressori della legge, a riprova del fatto che lo spettatore, per accettare e anche apprezzare la violenza al cinema, deve innanzitutto vederla sullo schermo raccontata all'interno di una struttura narrativa che la posizioni in chiave morale e che quindi lo solleciti a prendere delle posizioni e a schierarsi a seconda del personaggio che in qualche maniera gli appare e gli viene descritto come moralmente integerrimo. È un po' la vecchia storia dei western, i buoni contro i cattivi. Accettiamo la violenza perché alla fine la violenza ha una sua morale, appunto, ha una sua giustizia, quindi non colpisce alla cieca ma punisce i personaggi che nel film, almeno sul piano narrativo, sono stati considerati, tratteggiati come moralmente riprovevoli. Leonardo, parafrasando il titolo del tuo libro, la gente oggi al cinema vuole ancora vedere il sangue? Assolutamente sì, per preparare rifarmi a questo libro, ho fatto una statistica molto, come dire, artigianale, personale. Cioè, per tutto il periodo in cui ho scritto, e la cosa è andata avanti per svariati mesi, mi sono limitato a guardare quanti film di tutti quelli in programmazione avessero dei contenuti violenti più o meno dominanti, e ti posso dire che siamo intorno al 50%, cioè quasi la metà dei film che noi andiamo a vedere, che noi possiamo andare a vedere, che sono programmati nelle sale, sono film che contengono dei momenti di violenza. Magari non sono film a dominante violenta, però sono dei film che contengono delle scene di violenza. Questa riprova del fatto che la violenza ha una sua attrattiva al cinema, purché, lo ripeto, però sia in qualche modo corredata di una struttura narrativa che la dota di una morale. E allora, Leonardo, grazie per essere stato con noi. Leonardo Gandini, autore di Voglio vedere il sangue. Noi a questo punto diamo la linea alla viabilità. Fra poco torniamo insieme e parliamo di tutt'altro genere, di un film di Jean-Jacques Annaud. Rimaniamo comunque in Francia con L'ultimo lupo. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora insieme. La rosa purpurea, secondo film francese di una settimana molto molto francese nei cinema italiani. L'ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques Annaud, regista da colossal proprio, da 7 anni in Tibet, tanto per restare sull'esotico, al nome della rosa, per andare ancora un po' indietro nel tempo. E anche stavolta grandi spazi, un ambiente naturale favoloso, un film che sotto il profilo visivo è proprio un film da cinema, cioè un film da vedere sul grande schermo. Una storia ambientata nella Cina della rivoluzione culturale, quando il governo cinese aveva deciso sostanzialmente di esterminare gli ultimi lupi che vivevano in Mongolia. Il suo sogno era vivere come i lupi, libero come loro. Voleva obbedire solo al grande Tengher, al cervo eterno. Il suo solo, unico maestro. Chen Zhen, tu invece a chi obbedisci? Io obbedisco solo ai miei genitori, ai superiori e a chi rispetto. Allora spero di essere sempre uno di loro. Ti devo confessare una cosa, però. E allora, chissà cosa confesserà. Rimaniamo sul sospeso. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao, Boris. Buongiorno a tutti, buongiorno Franco. Allora, è un tentativo questo di... È molto buffa questa storia di Jean-Jacques Annaud. L'Amante era stato il film più censurato in Cina, ma era stato anche il più visto illegalmente, per cui forte di questa pubblicità sotterranea è stato contattato dalla China Film Group Corporation per girare in Mongolia questo nuovo film. Questi sono i percorsi strani della Cina contemporanea. Però insomma, il film riveste il ruolo di una favola un po' epica, un po' ambientalista, per raccontare più l'uomo che la natura. Sì, assolutamente sì. Mi sembra un po' la parabola che ha fatto John Woo tornando in Cina e cercando appunto di fare un film che mettesse d'accordo governo e se stesso. Non c'è nessuna considerazione di merito in questo. Semplicemente ha cercato Annaud di probabilmente conciliare questa richiesta, questa a tutti gli effetti una commissione, perché di questo stiamo parlando, con il suo stile, che comunque già si attaglia a quel tipo di grandiosità o comunque di retorica, di enfasi soprattutto delle immagini, e qui, se vogliamo, il contenuto racconta la storia di un uomo particolare, un uomo anche non particolarmente sfaccettato, e le immagini invece sono consegnate alla grandezza del paesaggio e in particolare appunto a un animale che viene, come spesso accade in Annaud, viene accarezzato dalle immagini, viene enfatizzato dalle immagini, viene reso quasi un dio. Questa caratteristica della macchina da presa mossa da questo regista è straordinaria. Non c'è nulla di documentaristico, pur sembrando immagini iperrealistiche, e si riesce a consegnare a questi esseri viventi neanche un'umanità, ma proprio una divinità estrema. Chiaramente il film, questa divisione così netta, e anche il modo di raccontare, che non vuole essere sensibile per sottrazione ma vuole essere grandioso, non regala al film chissà quale profondità o chissà quale tridimensionalità, ma in fondo quello che noi ci troviamo di fronte probabilmente è una favola raccontata con tutto tutti i budget del caso e con tutti gli effetti del caso. In questo senso ha una sua efficacia. Devo dire che nel momento in cui l'ho visto, la sensazione è di aver visto un film un po' vecchio, un film un po' sorpassato, no? Che mi avrebbe potuto colpire forse ai tempi dell'Ultimo Imperatore di Bertolucci. Adesso faccio fatica, insomma, a sostenerne sia il ritmo sia la pomposità, però nel complesso, se piace lo stile del regista, questo è proprio un film suo e quindi in questo senso nessuno rimarrà insoddisfatto degli ammiratori. E allora, Jean-Jacques Annaud con L'Ultimo Lupo nei cinema italiani, noi prendiamoci una piccola pausa per il momento, cioè più che pausa, andiamo a giocare insieme con la prima clip del film misterioso di oggi. Milioni di persone guardano il nostro show. Io voglio occuparmi di notizie vere, non delle grandi labbra dei Nicki Minaj che flippano fuori dalla serata dei Grammy. Non ti piace lo zucchero nero? Che c'entra lo zucchero nero? Dialoghi al vetriolo per il film con il quale giochiamo questa settimana. Dovete indovinarne il titolo, scriverci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo appunto e il vostro indirizzo. Provate a vincere una copia in Blu-ray, più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. E adesso completiamo il triplete francese con La famiglia Bélier, terzo film francese nei nostri cinema in questo fine settimana, firmato Eric Lartigot con Karim Biar nel ruolo di protagonista. La storia della famiglia Bélier, famiglia di agricoltori della Normandia, piuttosto buffa per tanti motivi. Tu hai una pepita d'oro in gola, Paula Bélier, una pepita d'oro ancora molto grezza. Che ne diresti di studiare canto a Parigi? A Parigi? Mm-hmm. Da 10 anni presento allievi al concorso di Radio France. Ho sempre fallito, ma con te e Gabriel, vieni, vieni. Se siete d'accordo, con te e Gabriel potremmo farcela. Il concorso è fra 3 mesi, dopo lo spettacolo. 3 mesi? Lo so, è molto vicino, ma puoi farcela. L'importante è non perdere tempo. Tu hai un dono, Paula Bélier. Ha un dono Paula Bélier, quello di parlare in una famiglia di sordi, sì, perché i Bélier sono sordi, tutti tranne Paula, che tra l'altro, oltre a poter parlare, scopre anche di cantare divinamente, di poter avere con il suo talento, certo, la possibilità del successo, ma anche forse l'occasione, e questo la fa sentire in colpa, di dover andare via dalla sua famiglia e di lasciare soli gli altri Bélier. Boris, qui siamo nei panni proprio della commedia con contenuti, diciamo così, che è un altro filone classico della commedia francese. Sì, devo dire sorprendente. Adesso non vorrei dire una bestemmia, perché chi lo vedrà poi verrà in qualche modo colpito molto di più da questo film e lo considererà molto più forte, però non trovo che entri nel filone di Benvenuti al Nord, per andare molto più oltre ovviamente, no? Anche lì si combattevano dei pregiudizi, anche lì c'era qualcuno completamente estraneo al mondo in cui viveva che ce lo raccontava in qualche modo, che lo esprimeva. La famiglia Bélier lo fa in maniera più raffinata, devo dire, lo fa però con le stesse armi, c'è una sceneggiatura solidissima, assolutamente perfetta nei ritmi, nelle battute, che non si concede nessun fronzolo, nessuna pennellata d'autore. In questa è una commedia classica, anche nel senso che vuole intrattenere prima ancora che far riflettere. E poi è bella la metafora, però, perché questa ragazza per cui la voce non è qualcosa di scontato, perché la sua famiglia in qualche modo ne ha bisogno, per cui ascoltare qualcosa non è scontato, e questo che noi consideriamo normale chiaramente diventa qualcosa di estremamente potente in mano a Paula, che scopre addirittura di non avere solo una voce, ma di avere qualcosa di più, di avere se vogliamo un passepartout per qualcosa di creativamente immenso e che può dare gioia non alla sua famiglia, come avveniva quando la usava solo come interprete, ma a tutto il mondo, come avverrà nel momento in cui sarà interprete musicale. È molto semplice come metafora, è molto semplice anche il film, non cerca mai di andare oltre, però poi alla fine è efficace, quindi devo dire che sono uscito, che sorridevo perché era una commedia, sono uscito anche però con il cuore un po' più intenerito, perché comunque quella che ci viene raccontata è una bella storia di affetti, è una bella storia di nascita e rinascita, è una bella storia, punto. E di solito che cosa chiediamo di più al cinema? Niente, una bella storia, e quindi va bene così. Cos'è la storia del concorso? Fra 4 mesi provo a entrare alla Maîtrise de Radio France. Che cos'è? Un'importantissima scuola di canto a Parigi. Tra 4 mesi vado via da qui. E che ci sei venuto a fare? Mio padre è organizzatore di concerti, non ha tempo per me e sono finito da mia nonna. E tua madre dov'è? Non lo so, devo andare, ciao. Senti, no, come facciamo per le prove? Ci vediamo stasera. Ok. Vengo da te alle 6, ti trovo sull'elenco, no? Sì, ok. Ma perché non sto mai zitta? La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, la rosa purpurea, terza parte del nostro programma. Fra poco l'intervista a Edgar Reitz, che ci parlerà del ritorno di Aimat, anzi dell'arrivo di Aimat per due giorni, del nuovo Aimat, di Andere Aimat, per due giorni nei cinema italiani. Prima però andiamo a parlare di cinema italiano invece con un film piuttosto interessante firmato Giorgia Farina, si intitola Ucciso Napoleone e racconta le 24 ore più sconvolgenti della vita di una bella giovane ragazza in carriera, una manager, Anita, la cui vita viene spazzata via da un figlio che deve arrivare e che non si aspettava. Ma non mangia nulla proprio? No. Non ricordo più quando ho mangiato l'ultimo piatto di pasta. Quando avevo 12 anni pensavo che se fossi diventata enorme i miei si sarebbero accorti di me. A un certo punto pesavo 20 kg in più di quanto avrei dovuto. Ma loro continuavano a non guardarmi. Poi mio padre si è messo con una ragazza di 20 anni e mia madre con una donna di 30. Da allora non ho più toccato un piatto di pasta. E allora, Micaela Ramazzotti, protagonista di questo film, con Libero De Rienzo, Adriano Giannini, Elena Sofia Ricci, Yaya Forte, un cast interessante, una regia al femminile che per quanto riguarda i registi italiani non è, almeno quelli delle generazioni più giovani, non è esattamente una cosa normale e solita. E allora accogliamo con un plauso anche questo film che Boris ha il suo punto di forza, a mio modo di vedere, nel rapporto con il tempo, con la linea del racconto, con il fatto che i fatti, scusate il giorno di gioco di parole, cambino velocemente e che sulla scia anche di narrazioni americane da telefilm come quelle di 24 facciano cambiare insieme anche il ruolo e il profilo dei personaggi. Mi ha colpito perché questo film andrebbe, nel recensirlo, spezzato in tanti piccoli frammenti, anche opposti fra loro, ma anche nel giudizio, perché ad esempio, senza come dire, specificare che cosa accade, perché chiaramente questo è un film, una specie di thriller lavorativo di cui si può svelare pochissimo se non si vuole rovinare la sorpresa. Però a mio parere sbaglia l'ottica, nel senso che è interessantissimo quello che vuole raccontare, ma probabilmente il personaggio di Libero De Rienzo doveva avere il ruolo di Micaela Ramazzotti e quello di Micaela Ramazzotti quello di Libero De Rienzo. Micaela Ramazzotti, che io ho apprezzato moltissimo nei film con Paolo Di Zio, ho apprezzato moltissimo nei due film con Francesca Archibucci, ma che mi dà proprio l'idea di essere un'attrice che quando non sviluppa un rapporto fortissimo con il cineasta che la dirige e rimane un po' fuori dal film. Ma allo stesso tempo, come dici tu, c'è una gestione del tempo e una gestione della regia molto interessante e anche coraggiosa, anche questo, anche nella scrittura. La scrittura nei dialoghi e nelle battute non è efficacissima, ma nello scorrere del tempo, nel cercare una sorta di montaggio narrativo oltre quello visivo, è molto efficace. È un film che ti lascia abbastanza basito, perché ci sono cose molto buone e cose invece decisamente poco efficaci e non riuscite, però questo conferma secondo me che probabilmente il film non è straordinario e magari potete anche non vederlo, però Giorgia Farina è sicuramente una cineasta da seguire, aveva già fatto Amiche da morire, è molto interessante, forse più efficace in tutte le sue parti ed è sicuramente un talento che va seguito. In questo caso forse alla Troisi è meglio che ricominci da tre. E allora questo è Ucciso Napoleone con Micaela Ramazzotti. È arrivato il momento di giocare ancora insieme con il nostro DVD game. Voi due sarete chiusi in una stanza da soli con Kim. Alla CIA piacerebbe che poteste farlo fuori. Farlo fuori. Intende l'incontro. La rosa purpurea chiocciola radio24.it, il titolo del film, il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray che sono qui per voi e sveleremo la prossima settimana. Più tardi invece vi daremo i vincitori del game di 7 giorni fa. E allora è arrivato il momento di parlare di Aimat e soprattutto di ascoltare Edgar Reitz, il grande regista tedesco che con la sua opera ha segnato il cinema d'autore europeo dagli anni 70 in poi, grazie soprattutto a questa incredibile serie di saghe lunghissime, fatte di film bellissimi, che hanno raccontato non solo la nascita e lo sviluppo di una nazione, quella Germania moderna, che tanto ruolo ha avuto nella storia dell'ultimo secolo, ma lo ha fatto anche sconvolgendo, se vogliamo, il formato cinematografico, con film talmente lunghi da essere divisi in capitoli che però a loro volta erano a sé stanti, ma che avevano un senso tutti nell'insieme. Il primo Heimat, poi Die zweite Heimat, il secondo, il terzo Heimat, che sembrava avere chiuso la saga, e poi un anno fa Die andere Heimat, l'altra Heimat. Heimat è un concetto in Germania che non ha un corrispettivo in Italia, non è solo patria, non è solo terra d'origine, è quasi un luogo mitico, un luogo dell'anima, ed ecco che a questo luogo dell'anima ancora una volta Edgar Reitz ha dedicato un film. Lo abbiamo intervistato, l'abbiamo avvicinato qualche tempo fa a Locarno durante una bellissima iniziativa che si chiama L'immagine e la parola, ed è stata l'occasione davvero per capire meglio cosa ci sta dietro la poetica di questo grandissimo regista, proprio mentre il suo film, questo nuovo Heimat, che dura solo, diciamo così, 4 ore qualcosa, e che quindi viene proiettato di fatto tutto insieme questa volta e non a puntate, a pezzettini come fu per le precedenti saghe, insomma, che cosa c'è di nuovo in questo nuovo Heimat e che cosa ha lasciato questa incredibile filmografia fatta di opere che hanno occupato più di 20 anni della storia di un regista. Allora cominciamo ad andare ad ascoltarlo, Edgar Reitz, raccontarci proprio il rapporto con il pubblico italiano. Io personalmente ricordo il primo Heimat quando arrivò nelle sale, proiettato a Milano al Cinema Colosseo, tutti mercoledì, una puntata tutti mercoledì, ebbene per 12 settimane un pubblico foltissimo di pomeriggio arrivava, faceva la coda e vedeva quello che sembrava quasi essere un reality, perché i personaggi erano diventati amici, di cui volevi vedere gli sviluppi, gli amori. Era la storia di una banda di studenti e di artisti che animavano la Germania pre-muro di Berlino. E c'è un aneddoto che Edgar Reitz racconta proprio per sottolineare il legame con il pubblico italiano. Sì, devo dire che quando era tutto finito, un bel giorno, una giovane coppia di Milano improvvisamente si è presentata alla mia porta, a casa mia a Monaco. Non riuscivano neanche a dire una parola, però sorridevano e si tenevano teneramente per mano. E poi mi hanno raccontato che si erano conosciuti in occasione della proiezione di Die zweite Heimat al Cinema Colosseo di Milano. Si erano incontrati per 13 settimane, ogni mercoledì, sedendo uno accanto all'altro, e adesso erano in viaggio di nozze. Davvero un racconto divertente questo aneddoto di Edgar Reitz. Perché le saghe? Perché Edgar Reitz ha scelto questo formato extra large per raccontare le sue storie? All'inizio di Heimat, chiaramente eravamo preoccupati della reazione del pubblico nel trovarsi di fronte a storie così lunghe. Infatti, alla prima che si è svolta a Monaco, eravamo davanti alla porta di questo cinema con i miei amici e i miei collaboratori, aspettandoci che dopo un paio d'ore qualche persona lasciasse la sala cinematografica. Eravamo preparati a questo, ma non è successo. Devo dire che neanche uno spettatore, neanche dopo 16 ore, ha lasciato la sala. Per me è stato un grande trionfo. Quanto alla lunghezza, in letteratura troviamo già queste forme diverse del raccontare. La poesia, la novella, il racconto, il romanzo. Tutte queste forme narrative per ora non sono state scoperte dal cinema. Se guardiamo alla storia della cinematografia, nel cinema delle origini ma anche in quello moderno, ogni tanto si è cercato di raccontare queste grandi storie. Pensiamo ad esempio a David Wark Griffith in Nascita di una nazione, o a Erich von Stroheim in Rapacità, oppure a Bergman con Scene da un matrimonio, Bertolucci con Novecento, i fratelli Taviani con Chaos e così via dicendo. Immer wieder ist versucht worden in der Filmgeschichte romanhafte große Formen zu erzählen. Torniamo a Die andere Heimat, a questo capitolo. Die andere Heimat, cronaca di un sogno, è il sottotesto, il sottotitolo del film, che dopo vedremo, è una sorta di prequel, nel senso che si sposta alla fine dell'Ottocento, nella grande immigrazione tedesca verso il Sud America, e qui il tema della migrazione che ritorna in tutte le saghe di Aimat. Anche qui c'è un aneddoto: un giorno Edgar Wright ricevette la lettera di un'infermiera che lavorava a Porto Alegre in Brasile e diceva: lei assomiglia molto al dottore di questa clinica che si chiama dottor Wright, c'è forse una parentela. A questo punto gli fece avere un libro, il regista lesse questa genealogia della famiglia Wright e si rese conto che c'erano a questo punto qualche antenato in comune in Brasile. Da qui è nato proprio il tema della migrazione verso il Sud America, che è fortissimo in questo quarto Aimat. Ma cosa doveva dire questo nuovo film che le altre tre saghe non avevano già detto? Odio la parola prequel, perché non ho mai avuto nemmeno in mente di fare un'integrazione a questa grande trilogia. Per me questa trilogia era già finita come forma artistica. Con l'epilogo e i frammenti si era chiuso il ciclo. Di Andere Aimat è un film completamente nuovo e indipendente. Diciamo che si tratta di una vecchia storia che avevo in mente già 20 anni fa. Una storia che sapevo già potesse essere soltanto un film per il cinema e non per la televisione. Nelle saghe di Aimat sempre le donne hanno un ruolo particolare, oserei dire che in certi momenti hanno il punto di vista del film. Perché? In Aimat 2 ho usato una frase dove dico: viviamo nel secolo delle donne. Se guardiamo le biografie degli uomini e le confrontiamo con quelle delle donne, queste ultime sono sicuramente molto più interessanti come racconto cinematografico. Forse perché sono biografie molto più flessibili, che ci offrono maggiori opzioni. Nelle biografie degli uomini è come percorrere una strada a senso unico, senza sorprese. Per quello sono così interessanti i personaggi femminili, perché non seguono nessuna logica. Ma dopo 30 anni passati a fare film ciclopici, monumentali, Edgar Wright sarebbe ancora capace, avrebbe ancora voglia di lavorare un film di lunghezza normale? L'originale di questo Di Andere Aimat all'inizio, prima di essere tagliato, aveva la durata di 5 ore e mezzo. Poi ho dovuto tagliarlo per adeguarlo alle proiezioni nelle sale e l'ho tagliato a 4 ore. Le 4 ore sono un formato che c'è sempre stato nel cinema e siamo ad esempio a Via col Vento. Adesso, per esempio, sto lavorando a una storia che avrà una durata normale, diciamo 2 ore circa, 100 minuti. Dipende sempre dal soggetto, dalla storia. Non è che giro film lunghi perché mi piace, ma perché devo assecondare la storia. Edgar Wright alla Rosa Purpurea per parlare di Andere Aimat, cronaca di un sogno, nei cinema italiani martedì 31 e mercoledì 31 marzo e mercoledì 1 aprile. La Rosa Purpurea. E siamo ancora qui alla Rosa Purpurea. Ancora qualche film c'è rimasto nel carniere. Parliamo di film per famiglie, parliamo di animazione DreamWorks, parliamo della squadra creativa che ha creato, che ha inventato Dragon Trainer, tanto per dirne una. Stiamo parlando di Home, a casa, sottotitolo che è quasi una traduzione in italiano, di Tim Johnson, che nel cast vocale originale, quello americano, annovera personaggi tipo Jennifer Lopez, Rihanna, Steve Martin, per raccontare una favola piena di buoni sentimenti e di buoni contenuti, quella di un alieno, si chiama O, scoprirete forse perché, che atterra sul nostro pianeta insieme a tutto il suo di pianeta, che ci invade sostanzialmente, ma senza volerci male. Sposta semplicemente i terrestri, gli umani, in mezzo ai deserti, in altri posti, dove costruiscono splendidi e circolari villaggi di villette a schiera. Una ragazzina di 12 anni che rimane invece nascosta nella sua cameretta farà amicizia proprio con questo che è più scalcagnato, sfigato e nerd di questi alieni. Le due solitudini si uniranno e nascerà una splendida amicizia che è un inno alla tolleranza. Tu pensava che potere scappare? Vogliono distruggere il pianeta. Noi non ci arrendiamo. Io non essere integrato tra i boob. Nessuno è perfetto. I tuoi errori sono ciò che ti rende umano. Ok, pausa pipì. Anch'io pausa pipì. Ah! Non mangiare i dischi blu! Per fortuna c'è grande tazza di limonata! Non bere limonata! uno dei momenti più esilaranti del film. Un'animazione molto morbida, molto adatta ai bambini, anche molto piccoli. Ecco, se dovete fare una prima esperienza al cinema a un bambino di 3-4 anni, questo è un film perfetto, però ha una lettura ovviamente che adatta anche a un pubblico assolutamente di adulti. Boris, la cosa, al di là della storia, se vogliamo, edificante, eccetera, la cosa che mi è piaciuta di più qui è proprio l'inventiva, cioè come si sia lavorata sui caratteri, sulle forme dei personaggi, sull'immaginazione di questi alieni, sulla magia di certi momenti, quando scopriamo che i cattivi, come capitava alla strega Carabà di Kirikou, se ricordi, non sono cattivi per niente, ma hanno sempre un motivo per esserlo. Insomma, c'è davvero un grande lavoro di immaginario dentro questo film. Immaginario che si scrive benissimo in quello che sta raccontando la DreamWorks, e non è un caso che questo sia il team di Dragon Trainer. Molto divertente Home, perché se Dragon Trainer ci diceva che anche un presunto incapace può diventare eroe, qua Home ci dice che un incapace può essere un eroe o un eroe può essere incapace, e in questo c'è tutta la poetica dell'animazione mainstream degli ultimi anni, quella per intenderci di Monsters & Co. o quella di Wall-E, anche perché in fondo non siamo molto lontani, o ha il pregio di essere divertentissimo per quel cambio di colore che segna la sua emotività e che ovviamente è efficacissimo nell'essere un'esplosione di comicità. Per quella sua capacità di essere sempre goffo, ma non provi mai tenerezza per lui, perché in qualche modo riesce a fare quello che vuole, quasi un Robin Williams animato in questo senso, sa dove arrivare, allo stesso tempo però sembra quell'animaletto dell'era glaciale che con una ghianda può rompere i ghiacciai interi, nel senso che con quello che fa all'inizio può far rischiare di estinguere un mondo. Home ha questa caratteristica, questa capacità di essere molto fantasioso, molto inventivo in tutte le conseguenze nella storia che racconta, e allo stesso tempo però molto concreto e anche molto elementare nel messaggio che manda, che sono messaggi molto immediati per quanto riguarda i bambini, ma anche molto elaborati per quanto riguarda gli adulti. Si passa appunto dalla necessità di crescere per affrontare le proprie paure a vincerle fino all'intolleranza. Ci riescono benissimo, sono bravissimi in questo, ormai sono rodatissimi, se proprio si deve trovare un difetto forse è proprio quello che fanno apparire tutto una macchina troppo perfetta, ma credo che figli e genitori ci andranno molto volentieri a vedere Home. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Ebbene, tanta carne al fuoco anche questo weekend nei cinema italiani. Noi andiamo a parlare adesso di cinema da vedere in casa, partendo però dalla soluzione del game di 7 giorni fa. Tu mi ami? Io ti amerò per tutta la vita. Anche se aspetto un bambino da un altro? Anche se aspetti un bambino da un altro, sì. Mi racconti una barzelletta? Si trattava di Soap Opera, una delle commedie italiane che avevano aperto questa stagione cinematografica, commedia collettiva. L'hanno indovinata, e per cui vinceranno, riceveranno a casa il Blu-ray di questo film, Maria di Giandomenico di Chieti e Giulia Bona di Voghera, provincia di Pavia. E noi, per parlare di Soap Opera, di questa edizione in Blu-ray, siamo in collegamento con la redazione di Film TV e con Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo di storie d'amore e di morte in un condominio, tra equivoci amorosi, appunto disorientamenti sessuali, fratelli coltelli e starlette da soap opera. Alessandro Genovesi, che è già stato autore teatrale adattato tra l'altro da Salvatores con Happy Family, il regista di La peggior settimana della mia vita e Il peggior Natale, oggi al cinema tra l'altro con Ma che bella sorpresa, tenta con soap opera una via eccentrica per la commedia italiana, cioè qualcosa che sta tra la solita giornata commedia dell'arte nostrana e spinta, diciamo, più esterofile, tanto che nelle ambizioni scenografiche sembra guardare niente meno che all'Alain René di Cuori. In DVD e Blu-ray quindi potete recuperare questo film dolcemente bizzarro, più interessante devo dire che è riuscito, che è stato un flop al botterino, ma che cerca di smuovere comunque il terreno stantio della nostra commedia attuale. allora, questo per quanto riguarda soap opera, il film della scorsa settimana, il nostro gioco di 7 giorni fa. Andiamo alle segnalazioni TV, Giulio, per quanto riguarda invece il palinsesto della prossima settimana, a partire da domenica 29 marzo, quando ritorna un grande capolavoro di Marco Ferreri, La Grande Abbuffata. Sì, su Iris a 1:20 di domenica, La Grande Abbuffata, si ritrovano in quattro e decidono di farla finita mangiando fino a scoppiare. La metafora è decisamente chiara, la società dei consumi può solo autodivorarsi e oggi tra uno sconvolgimento politico, uno ambientale e l'affiorare di istinti autoritari e fondamentalisti, la profezia di Ferreri sulla decadenza della società occidentale è più realistica che mai. Parliamo veramente di cinema maiuscolo che riflette attraverso il grottesco sulla natura dell'uomo ed è capace di ridurre qualunque pratica illuministica alla mera soddisfazione di bisogni primari e regressivi. Gli attori sono veramente straordinari, il film è veramente una pietra miliare della storia del cinema. Così come anche Voglia di tenerezza, che verrà programmato martedì 31 marzo da Rai Movie. Sì, invece Voglia di tenerezza, martedì su Rai Movie alle 21:15. Parliamo di una commedia sentimentale brillante che comunque tiene il tempo del presente nonostante sia radicata in maniera profonda nell'America degli anni Ottanta, ed un film che è anche un melodramma sul rapporto tra madre e figlia con un duetto Shirley MacLaine, Debra Winger, assolutamente memorabile. James L. Brooks, che è tra l'altro è stato autore dei Simpson e produttore del primo film di Wes Anderson, è un uomo di cinema, regista, sceneggiatore, produttore da studiare per quanto è influito sul cinema americano degli ultimi 30 anni. Il suo primo film, questo, rimane un prodotto commerciale intelligente, commovente, sensibile, un cult di quegli anni però da gustare anche oggi. E questo allora, Voglia di tenerezza, martedì 31 marzo su Rai Movie alle 21:15. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E allora andiamo, prima di chiudere, a parlare del nostro sondaggio che ci avvicinerà al settantennale della Liberazione, al 25 aprile, con Una Mattina, l'iniziativa che la Rosa Purpura insieme a Coop Italia sta portando avanti sul proprio sito, sul sito di Radio 24 e su altre realtà, cioè ogni settimana 10 film sulla Resistenza, sulla Seconda Guerra Mondiale italiani e internazionali che il nostro pubblico dovrà votare. Alla fine uno di questi film sarà il film degli ascoltatori della Rosa Purpurea, fra i 10 che verranno proiettati in tutta la Lombardia proprio per ricordare i 70 anni della Liberazione. Come è andata la settimana scorsa? Intanto numerosissime le partecipazioni. Il film primo in classifica, che passa il turno, diciamo così, per quanto riguarda il primo blocco, è Roma Città Aperta di Roberto Rossellini con il 29% dei voti, tanto per andare di statistica, davanti al 24% della Vita è bella, quindi ha battuto Benigni, Rossellini, ma i nostri ascoltatori sono tosti. C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, Trend e V, e poi via via tutti gli altri, fino a La ragazza di Bube di Comencini e Flammen e Citronen di Christian Madsen, meno conosciuto, che infatti non ha ottenuto neanche un voto. Va detto. I film di questo secondo blocco, che da questo momento potrete votare sul nostro sito: Paisà di Roberto Rossellini, La ciociara di Vittorio De Sica, Il conformista di Bernardo Bertolucci, Amarcord di Federico Fellini, non è strettamente sulla Resistenza ma c'è dentro anche quello, Notti e nebbie di Marco Tullio Giordana, Piccoli maestri di Daniele Lucchetti, L'armata degli eroi di Jean-Pierre Melville, Black Book di Paul Verhoeven, Terra e libertà di Ken Loach, Fuga per la vittoria di John Huston. Trovate sul nostro sito tutti gli estremi per dire la vostra, lo trovate sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpura, insomma ci sono tutti i modi per partecipare a questa grande iniziativa. E siamo arrivati così alla fine della nostra trasmissione, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento fra 7 giorni, grazie a Gianmarco Ferronato che ci ha aiutato in regia, Silvi Boccaletti in redazione, un saluto da Franco D'Assisti.